Quelle poche volte che la sento a casa si avete stereo, mai attraverso la TV. E i gusti sono dettati dall'aspetto estetico o anche dal prezzo? Tutto sulla qualità, certo, a un livello di spesa contenibile. Come l'hai scelto il tuo stereo? In base a quali caratteristiche? Beh, in base alle funzioni, alla potenza, anche la marca. Ho visto che la signora è molto incuriosita da questo diffusore, perché? Da portare in viaggio, sì, per sentire quello che c'è sull'iPod o sull'iPhone. Però dovrebbe essere ancora più piccolo.